Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus, l'Osservatorio Nazionale della Salute stima casi zero a fine aprile, prime regioni Umbria e Basilicata. Le ultime a chiudere la curva saranno Lombardia e Marche, ma a giugno. Speranza intanto conferma verso la fase 2, ma la battaglia non è ancora vinta, in arrivo col prossimo decreto, risorse per il territorio e gli ospedali Covid. Aperture diversificate per regioni, per il ministro Patuanelli, ma il presidente della Lombardia Fontana stoppa, sarebbe un rischio per tutti. In vista del Consiglio europeo di giovedì cresce l'attesa per le decisioni comunitarie. Il commissario Gentiloni promette non falliremo, in arrivo misure impressionanti. Calcio, l'UEFA programma di chiudere le Champions e l'Europa League ad agosto, domani vertice di Lega per la stagione italiana. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. I contagi nel nostro paese continuano a diminuire, così come i malati gravi, e l'Osservatorio Nazionale della Salute stima che le prime regioni a chiudere la curva, ad azzerare i contagi, saranno l'Umbria e la Basilicata. Già al 20 di aprile ci vorrà molto più tempo invece per altre regioni come le Marche e la Lombardia, bisognerà attendere giugno. Parla anche il ministro della Salute Speranza, la battaglia non è ancora vinta, poi annuncia risorse in arrivo per il territorio. Per prime Umbria e Basilicata, per ultime Lombardia e Marche. Al netto dell'effetto delle prime riaperture, è un paese a diverse velocità di marcia, quello descritto dall'Osservatorio della Salute rispetto ai tempi dell'azzeramento dei contagi. Solo a fine giugno, secondo la squadra di studiosi coordinata da Walter Ricciardi, anche la regione più colpita potrà essersi liberata dal Covid-19, ultima dopo Emilia e Toscana a fine maggio, Veneto e Piemonte il 21. Elaborate sulla base dell'andamento del virus, che spostano più avanti rispetto alle prime proiezioni della Fondazione Einaudi il possibile punto zero dell'epidemia, un quadro che gli esperti sottopongono alla politica chiamata a decidere tempi e modi della riapertura. Così anche nelle grandi città si valutano i cambiamenti necessari. Uno potrebbe essere orari scaglionati per scuole e negozi aperti anche di sera, è la proposta del sindaco di Milano Sala, che valuta con la Confcommercio la sospensione delle tasse sul suolo pubblico per dare ai locali la possibilità di avere tavoli distanziati nelle piazze. Nuove regole anche all'interno del Tribunale e a Roma, e agli incentivi per il trasporto dolce, che pensa Virginia Raggi, che mette in cantiere corsie ciclabili. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fronte economico adesso, iniziamo con l'allarme del FIPE Confcommercio, 50.000 imprese sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, parliamo di bar, ristoranti, discoteche, ma anche pasticcerie e stabilimenti balneari, che sono in uno stato di crisi profonda secondo il FIPE, con 30 miliardi di euro di perdite già accumulate a fronte di misure di sostegno per il comparto che secondo Confcommercio risultano ancora gravemente insufficienti. Sono invece 100.000 le aziende che hanno già riaperto in questi giorni grazie all'autocertificazione. Per il ministro allo sviluppo Patuanelli, sentivamo, potrebbero esserci delle riaperture su base regionale. Confindustria invita a non perdere tempo. Si lavora alla fase 2, la fase di convivenza con Covid-19, che dovrebbe partire dal 4 di maggio. Vittorio Colao punta a consegnare al governo già a metà settimana la sua relazione, che sarà poi discussa con i comuni e le regioni, che già si fanno sentire. Dalla Lombardia l'assessore al welfare avvisa: non riapriamo senza condizioni. In Toscana non c'è accordo con la Confindustria, per governo e imprese per riaprire basta un metro di distanza tra i lavoratori. La regione e i sindacati chiedono 182 centimetri. Il governatore poi sottolinea come molte imprese siano già riaperte grazie a una comunicazione data alle prefetture. Si calcola che siano 100.000. Il ministro Stefano Patuanelli ipotizza, a che tempo che fa, una riapertura diversa da regione a regione. Si può ragionare su alcuni elementi di regionalizzazione delle aperture. Molti di noi non riapriranno più, è l'allarme del presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi. Oggi credo che siamo in ritardo, perché il 4 maggio è dietro l'angolo. Spero che la voce delle imprese venga ascoltata, perché la ripresa di questo paese, la salute passa anche dal lavoro, il lavoro è salute, è importantissimo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Settimana decisiva intanto per l'approvazione da parte del governo del decreto aprile, che a dire la verità è già un po' in ritardo rispetto alle attese. Al via oggi invece l'operazione liquidità per dare ossigeno alle imprese bloccate dall'emergenza coronavirus. Non andate nelle filiali, le richieste di informazioni, le domande si fanno per telefono e via mail, ha detto oggi a Radio Capital il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli, in merito appunto alle richieste di prestiti che, come sapete, riceveranno la garanzia dello Stato. E c'è attesa invece in Europa per la riunione del Consiglio europeo di giovedì prossimo. Oggi il commissario affari economici Gentiloni lancia il cuore oltre l'ostacolo e dice: sono in arrivo misure impressionanti. Sentiamo. Giovedì si giocherà la partita decisiva, così il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce la fiducia al premier Giuseppe Conte, che in queste ore è in contatto con gli altri capi di Stato e di Governo per arrivare tra 3 giorni a un accordo sugli strumenti per rilanciare l'economia. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sta lavorando a un piano per raccogliere 1.000 miliardi sui mercati da versare ai paesi più colpiti dalla crisi coronavirus o come prestiti da non rimborsare o con interessi pari allo zero. Il problema resta legato ai tempi. Al momento sul piatto ci sono i 500 miliardi approvati 10 giorni fa dall'Eurogruppo tra prestiti BEI, Banca Europea per gli investimenti alle imprese, Fondo per ammortizzatori sociali e ricorso al meccanismo europeo di stabilità. Il MES in Italia ha una cattiva fama, ha detto Conte in un'intervista al Süddeutsche Zeitung, rilanciando sugli Eurobond. Servono titoli comuni europei. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come al solito allarghiamo lo sguardo anche a livello globale per quanto riguarda l'andamento della pandemia di coronavirus. Sono 1.600.000 i casi attivi in questo momento, negli Stati Uniti quasi 2.000 vittime nelle ultime 24 ore. Sono più di 165.000 i morti di coronavirus nel mondo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University, secondo cui sono finora oltre 2.400.000 i casi di contagio confermati. Negli Stati Uniti, dove in totale sono più di 40.600 le vittime, Trump parla di costanti progressi contro il Covid-19 e annuncia di voler usare una legge di guerra degli anni 50 per aumentare la produzione medica di tamponi per i test. Intanto, in attesa che il presidente si colleghi coi governatori, proseguono le proteste contro i lockdown in diversi stati, mentre in Florida riaprono le spiagge. In Europa, dove le vittime sono ormai oltre 100.000, c'è preoccupazione tra i cittadini di Parigi per il ritrovamento di tracce di coronavirus nell'acqua non potabile della capitale usata per il lavaggio delle strade. Ma per il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, non ci sono rischi invece nell'uso dell'acqua potabile. In Germania, dopo un mese, è iniziato oggi la fase 2 con la riapertura di alcune attività commerciali con misure e tempistiche diverse nei vari land. Rialzate le saracinesche dei negozi con una superficie inferiore agli 800 metri quadrati, i concessionari d'auto, i negozi di biciclette e le librerie. In Spagna, infine, dove diminuiscono i decessi, aumentano le pressioni per allentare le chiusure, specie per i minori. Ma il presidente Sanchez vorrebbe prorogare il lockdown fino al 9 maggio prossimo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia. Via libera poco fa da parte del Consiglio dei Ministri allo slittamento delle elezioni amministrative che erano previste per questa primavera. Nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna regione, chiamata al voto, potrà indire le elezioni. Si parla di una finestra larga che va da luglio al mese di novembre. Altro dibattito è quello sulle scuole. Sembra che il governo abbia infatti deciso, a differenza di altri paesi, di non tentare alcuna riapertura a maggio. Lo ha detto del resto la ministra dell'istruzione Azzolina. In Germania si pensa invece, per esempio, di riaprire partendo dagli ultimi anni, cioè dagli studenti più grandi. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, prova a riaprire questo dibattito. Io veramente qui è una ferita nel cuore sapere che il sistema educativo italiano è così buono in termini dell'offerta per i nostri ragazzi, ma in questo momento la risposta è così debole. Altri pensano di riaprire. Noi diciamo forse a settembre. Qui ci vuole la capacità di aver gestito complessità e anche un po' di fantasia. Non possiamo sentirci dire ma le aule sono quelle che sono o i professori sono quelli che sono. E i professori ne abilitate altri, oppure li pagate in maniera diversa, oppure facciano solo lezione. E come fanno lezione in via digitale ai ragazzi? Faranno ricevimento dei genitori in via digitale. Bisogna inventarsi qualcosa di diverso. Sport, calcio, calendari ancora da definire. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, sì. Ieri l'UEFA ha provato a immaginare la fine della stagione europea ad agosto. Domani c'è una Lega. Per quanto riguarda la stagione italiana, qual è il punto, Carlo? Beh, che ci sono prove tecniche di ripresa, ci sono alcune date che sono fatalmente indicative. La prima a ricominciare dovrebbe essere la Germania. Se verranno rispettati i piani e i programmi, per l'Italia si continua a parlare dell'ultimo weekend di maggio, però siamo ancora sul fronte delle ipotesi. Mentre ci sono prove tecniche di ripresa degli allenamenti per le squadre, con qualche difficoltà anche curiosa, come ad esempio quella della Juventus con Higuain, che dice no, sono in Argentina per il momento, rimango qua tra paura e preoccupazione. È un po' più calma la situazione in Argentina, tutto sommato. Sì, però sono disguidi del momento questi, vediamo quanto gravi in senso sportivo naturalmente. Poi c'è altra nota curiosa, ad esempio questa disputa tra Serie B e Serie C, con la Serie C che ha proposto con Ghirelli, il commissioner delle leghe inferiori, che ha detto vabbè, verranno promosse le prime tre dei tre gironi della Serie C e una quarta per sorteggio. Questo ovviamente non è stato visto di buon occhio quasi da nessuno, soprattutto dalla Lega di B. Quindi questo un altro aspetto così. Curioso e divertente. Del resto, diciamo, Carlo, se ognuno dice la sua a livello di emergenza sanitaria, ognuno dice la sua anche a livello sportivo. A livello sportivo. Sì. Grazie Carlo, ti ritroviamo dopo il giro delle 14 con tutti i convocati. Noi facciamo un piccolo break, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo da un messaggio di ottimismo di chi vuole crederci in che cosa? In una stagione estiva in spiaggia, in Riviera Romagnola. Il sindaco di Riccione sarà con noi, parla già di giugno. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza coronavirus. L'Osservatorio Nazionale della Salute stima casi zero a fine aprile. Le prime regioni, Umbria e Basilicata, chiuderanno la curva, la Lombardia e le Marche solo a giugno. Speranza intanto conferma verso la fase 2, ma la battaglia non è ancora vinta. In arrivo col prossimo decreto risorse per il territorio e gli ospedali Covid. Aperture diversificate per regioni, per il ministro Patuanelli, ma il presidente della Lombardia Fontana stoppa, sarebbe un rischio per tutti. In vista del Consiglio europeo di giovedì cresce l'attesa per le decisioni comunitarie, Gentiloni promette non falliremo, in arrivo misure impressionanti. Spiagge aperte a giugno a Effetto Giorno, la sfida di Riccione, il sindaco dice a numero chiuso ma ci proveremo. Ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, Da oggi cercheremo, per quanto riguarda almeno questo spazio di informazione di Radio 24, di dedicare almeno, diciamo così, metà del programma a raccontare qualche cosa di costruttivo, che cosa si sta già facendo per superare questa emergenza, perché credo, almeno personalmente, che da questo punto di vista abbia ragione Zaia quando dice che la fase 2 è già iniziata, il governatore del presidente della regione Veneto, perché non nel senso che ci deve essere un via libera, liberi tutti, ognuno fa quello che gli pare, ma nel senso che stiamo già nella fase 2, stiamo già cercando di costruire le condizioni per poter convivere con il virus, altrimenti si fa un dibattito sterile su cosa si può e non si può fare. Bisogna organizzarsi per fare rendere possibile tutto ciò. E allora spazio alle, non dico notizie positive, ma le notizie costruttive. Cominciamo con questo, che è un annuncio, ma vediamo anche se seguiranno poi delle cose concrete, del sindaco di Riccione, che è con noi, la ringrazio. Renata Tosi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Che è questo? Lei dice, noi per giugno cercheremo di essere pronti con le spiagge attrezzate, in un certo modo, a certe condizioni, a numero chiuso, ma cercheremo di esserci. Allora, sindaco, al di là dell'ottimismo che come dire, sposiamo dal punto di vista dell'atteggiamento, però in giro c'è già parecchia confusione, quindi io le chiedo se lei esprime questo come una, come dire, una volontà, una speranza, o se ha ragione di crederci. Perché ha ragione di crederci? Ma no, deve essere una speranza, perché noi saremo, come ormai è stato acclarato, le località balneari saranno le prime a dover arrivare ad una declinazione tra turismo e questa emergenza sanitaria. Quindi saremo coloro che fanno la prova di come si riesce a convivere mettendo in campo tutta la sicurezza sanitaria, ma nel contempo dando appunto l'occasione di relax e di vacanza. In quali, ecco sindaco, scusi, sì, l'ho interrotta, prego, finisca l'ragionamento. L'idea logicamente è di applicare quelli che oggi sono i principi per la buona condotta personale a quella che può essere un'attività, quindi il distanziamento e l'attenzione nei rapporti interpersonali ci permetteranno di organizzare sicuramente una Riccione diversa, ma una Riccione che accetta la sfida del turismo in questo particolare momento della nostra vita. Ecco, senta, in quale condizioni lei si immagina di vedere una spiaggia attrezzata che possa accogliere i turisti a numero chiuso, distanziati? Beh, però ci sono anche gli spazi comuni, ci sono, certo, le docce. Che tipo di valutazioni anche tecniche state facendo? Stiamo facendo delle valutazioni con gli operatori che ci regalano la loro esperienza del campo, che è sempre strautile. La valutazione è quella logicamente di regalarci tanto spazio, che alla fine forse non sarà neanche un elemento negativo, e quindi un distanziamento tra ombrelloni piuttosto che tende, quindi tutti i presidi per l'ombreggiamento, la possibilità di avvalersi degli spazi comuni anche attraverso bigliettini, dei numeri, così come siamo un po' già abituati, no, nel nostro vivere la città. Sì. Beh, in questa fase poi della quotidianità, vivere in coda sta diventando un po' la regola, certo, quindi figuriamoci. Ed è anche bello, perché abbiamo riscoperto anche, no, la pazienza e la tenacia di rimanere comunque sulla questione. E logicamente l'unica cosa che dovremo necessariamente rinunciare saranno i momenti delle aggregazioni, quindi, ahimè, pochi giochi di società, quindi giochi delle bocce, la pallavolo, piuttosto che i giochi dei bambini o l'animazione che è caratteristica delle nostre spiagge, dovremo rinunciare. Senta, ma sì, non dobbiamo rinunciare alla nostra estate. Senta, lo chiedo a lei, anche se chiaramente non è un tecnico, non è un medico, non è un epidemiologo, figuriamoci, però è già stato anche detto dagli esperti, l'acqua, no, la doccia, andare in mare, questo, diciamo, dal punto di vista degli esperti non crea problemi, no? Cioè, nel senso, da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Da quello che sentiamo tutti è appunto in questi termini, anche perché sappiamo che la salinità del nostro mare è tale per cui effettivamente è un mare molto sano e molto controllato. L'Emilia Romagna, poi su questo sapete, ha un protocollo che applica molto rigidamente le direttive europee, quindi essendo così queste le condizioni che ci stanno regalando i medici, non vedo nessun pericolo nel vivere anche lì un bel bagno senza tante, insomma, senza tanta comunione. Senza mucchiare, senza mucchiare, lo dico io come espressione un po' così. Però senta, un'altra cosa, fatto 100 la capienza normale delle spiagge di Riccione, immagino poi il ragionamento sarà lo stesso per tutti i litorali, insomma, in particolare per la Riviera Romagnola, quale percentuale pensate di poter occupare? Un 40%, un 50%, sì, un 30%? Io direi no, attorno al 50%, anche perché la realtà riccionese è una realtà che vive anche tanto di seconde case. Riccione ha 6.000 seconde case, uh-huh, che certamente non subiranno nessun rallentamento, perché uno che vive, insomma, la propria quotidianità in una città, se la può vivere in una città di mare, godendo anche di un paesaggio forse che permette anche più relax e più spensieratezza, sicuramente non si tratterrà a venire. Certo. Quindi l'ultima, da questo punto di vista, il 50% è una prospettiva, è una stima plausibile. L'ultima cosa che le voglio chiedere è questa: gli stranieri dubito che potranno venire nel nostro paese, dubito che ci sia un via libera ad attraversare le frontiere, cosa che adesso non è consentito se non in casi molto limitati. Quindi turismo italiano, quale quota complessiva del turismo rappresenta quella italiana, e quindi diciamo in che modo si compone questa come dire, questo incontro tra un'offerta ridotta e anche una domanda ridotta? Sì, Riccione vive già molto di turismo nazionale, noi siamo al 75% Italia, 25% estero, quindi diciamo che l'incidenza è inferiore rispetto alla perdita, diciamo, di appeal quest'anno. È logico che ci dispiace comunque non poter ospitare e accogliere i nostri amici stranieri. E capiamo che quest'anno è una situazione completamente diversa, certo, dal normale, e credo anche io che quest'anno le frontiere, insomma, non si permetteranno una gran via vai di persone. Grazie sindaco di Riccione, Renata Tosi, grazie per essere stata con noi. Appuntamento in spiaggia, allora, speriamo a giugno, forse, in queste condizioni. Parliamo di fase 2 dal punto di vista delle aziende, raccontando anche storie singole, storie particolari come questa, Alessandro Arona. Mettere da parte gli utili dello scorso anno per organizzare meglio la ripartenza. Oltre alle banche spinte dalla BCE a non distribuire dividendi, a fare questa scelta sono molte tra le imprese italiane più solide, come Brembo, Pirelli, Tod's, Prysmian, Amplifon. Ultime della lista, dopo i consigli di amministrazione tenuti nel fine settimana, Essilor Luxottica e Brunello Cucinelli. Si tratta, è chiaro, delle piccole e grandi multinazionali italiane, fiore all'occhiello del nostro sistema industriale, convinte di avere, dopo la ripartenza, spazio per recuperare il terreno perduto. Luxottica, colosso degli occhiali e delle lenti da 17 miliardi di euro, ha messo da parte gli utili 2019, ha stanziato 100 milioni per aiutare i dipendenti in difficoltà e ha deciso di tagliare o rinviare i compensi del gruppo dirigente. Brunello Cucinelli, re umbro del Kashmir da 600 milioni di fatturato, oltre al rinvio dei dividendi, annuncia un'estate senza ferie per i suoi collaboratori per rilanciare l'attività. La crisi è solo congiunturale, spiega Cucinelli. Non licenziamo nessuno e ci prepariamo a recuperare il tempo perduto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E va bene, un altro capitolo di questa fase che in realtà è già iniziata, è quello che riguarda l'agricoltura, il tema dell'approvvigionamento della manodopera, delle risorse per portare avanti le attività in agricoltura. Rimaniamo in realtà in Emilia-Romagna con l'assessore all'agricoltura Alessio Mammi della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, qualche settimana fa c'era stato l'appello, l'allarme anche lanciato dal presidente di Confagricoltura su una possibile mancanza di circa 200.000 persone nei campi italiani per fare la raccolta, dei raccolti che sono molti in questa fase della stagione. Come sta andando intanto in Emilia da questo punto di vista? Le chiedo. Guardi, per quest'anno avremo ancora un'esigenza, un fabbisogno complessivo di circa 40.000 persone che dovranno lavorare come stagionali in agricoltura nei prossimi mesi. È chiaro che il fabbisogno è diminuito purtroppo a causa di terribili gelate che hanno colpito in particolar modo la zona della Romagna e il settore ortofrutticolo. Abbiamo avuto gelate a fine marzo, primi di aprile, che hanno fatto perdere il 40% della produzione lorda di vegetale, quindi un danno da 400 milioni di euro. Questo, ecco, ovviamente sì, porta a una riduzione del fabbisogno di manodopera, però rimane circa 40.000. Ecco, perché al netto di questa, di queste gelate, quindi di questi problemi che ci sono stati, il tema che come dire, che c'è è quello del problema di spostamento, perché spesso queste persone che lavorano nei campi vengono, si spostano o all'interno dell'Italia ma anche da fuori Italia, per esempio, e in questa fase non ci si può muovere, e quindi di lì il discorso della difficoltà di approvvigionamento. Voi avete avuto, se ho capito bene, anche una proposta più che un'idea da parte vostra, la proposta che arriva da associazioni di categoria proprio della Riviera Romagnola, di cui abbiamo appena finito di parlare. Dato che la stagione sarà un po' più bassa, sembra che si stia creando, come dire, una disponibilità a muoversi da un comparto, quello del turismo, all'altro, quello dell'agricoltura. Ci spiega bene che cosa state ragionando? È molto importante questo, perché quello che serve in agricoltura è soprattutto il lavoro dei raccoglitori, quindi persone che raccolgano la frutta. L'80-90% delle figure di cui c'è bisogno dovranno fare questo nei prossimi mesi. Quindi è possibile coinvolgere anche lavoratori che purtroppo non troveranno più occupazione nel settore del turismo, visto che quest'anno partirà, speriamo un po' più tardi, ma speriamo che possa ripartire, perché per l'Emilia Romagna è strategico. Tra l'altro, i lavoratori del turismo che godono della NASPI, quindi di questo, diciamo, sostegno pubblico al reddito, possono anche lavorare in agricoltura attraverso i voucher agricoli, quindi possono sommare alla NASPI che ricevono anche fino a 5.000 euro derivanti dai cosiddetti voucher agricoli, che sono ancora previsti nella normativa per alcune categorie. Quindi è un'opportunità importante, secondo me. E noi abbiamo, tra l'altro, come regione messo in campo un progetto che utilizza i centri per l'impiego per incrociare domanda e offerta di lavoro, rivolgendoci prima innanzitutto ai 135.000 cittadini emiliano-romagnoli che sono in cerca di lavoro. Noi oggi abbiamo 135.000 persone iscritte nelle varie liste dei centri per l'impiego, e che attualmente hanno la NASPI, reddito di cittadinanza, piuttosto che altri, sono cassa integrati. Ma avete già avuto delle, diciamo, dimostrazioni, manifestazioni di interesse dirette? Ci sono già dei numeri? Perché può sembrare anche una cosa un po' così da regime, no? Da regime, forse in Cina sono in grado di spostare la manodopera da un comparto all'altro così, per esigenze nazionali. Da noi questo chiaramente non si può fare, si può fare solo su base volontaria. Questa volontà. Noi abbiamo molte esigenze di manodopera agricola, in particolar modo nella zona della Romagna, quindi dove si raccoglie la frutta, che è una zona molto vicina anche a dove noi abbiamo il grosso del turismo. Quindi è vero che le persone si dovranno un po' spostare, adattare a un nuovo lavoro, ma io credo che sia un'opportunità da cogliere. E poi ripeto, possono sommare alla NASPI che hanno, cioè il sussidio di disoccupazione che deriva dall'aver perso il lavoro nel turismo, lo possono sommare a entrate che arrivano dal lavoro nei campi, nel lavoro agricolo. Quindi non è che lo perdono la NASPI se vanno a lavorare appunto in agricoltura. Assessore Mammi, grazie per essere stato con noi. Grazie. Vedremo, staremo a vedere se insomma ci sarà una risposta positiva a questa sorta di appello, in realtà delle manifestazioni di interesse nate proprio dalle associazioni di categoria dei lavoratori del settore del turismo, che si sono già resi disponibili a questa prospettiva, cioè andare a lavorare in agricoltura almeno per questo periodo, per il lavoro stagionale. Portando a casa quindi uno stipendio, assolverebbero, diciamo, anche un'importante funzione nazionale, e vedremo se forse anche tramite un coordinamento appunto governativo o nazionale si potrà favorire questo genere di soluzioni. 13:30, facciamo un piccolo break. 349-238-6666, torniamo tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza coronavirus. L'Osservatorio Nazionale della Salute stima casi zero a fine aprile, prima in Umbria e poi in Basilicata. Le ultime a chiudere la curva saranno Lombardia e Marche a giugno. Aperture diversificate per regioni, per il ministro dello sviluppo Patuanelli, ma il presidente della Lombardia Fontana stoppa, sarebbe un rischio per tutti. Allarme FIPE, 50.000 imprese dei pubblici esercizi a rischio chiusura dal governo, misure insufficienti. In vista del Consiglio europeo di giovedì cresce l'attesa per le decisioni comunitarie. Gentiloni promette: non falliremo, in arrivo misure impressionanti. calcio. L'UEFA programma di chiudere Champions ed Europa League ad agosto, domani vertice di Lega per la stagione italiana. Il punto di Alberto Orioli. Non serve la secessione al contrario, il sud che si chiude al nord per timore della calata dei nuovi untori di Covid-19. Il tema è ben più serio delle baruffe chiozzotte tra governatori, sempre a caccia di protagonismo. Il tema ormai è la riapertura e la sfida è rendere compatibili sicurezza e produzione. E come spesso capita, le parti sociali hanno già svolto un'opera meritoria di supplenza rispetto a questa politica rissosa e sbandata. E hanno già sottoscritto più di un protocollo per rendere compatibili la tutela della salute, della vita e la ripartenza per evitare la morte dell'impresa e quindi del lavoro. Il resto lo devono fare gli esperti, divisi nelle numerose task force, il governo, i suoi ministri, le regioni, i comuni. Bisogna sincronizzare diversamente gli orari delle città per evitare ingorghi e assembramenti e programmare una nuova modalità per gestire il trasporto pubblico, solo per citare due grandi capitoli. E di questo bisognerebbe parlare, non di piccole frontiere o di fregole sviluppiste, anche perché il paese è allo stremo e rischia la rivolta sociale. L'allarme dei bancari, che temono disordini agli sportelli per le folle che chiedono i prestiti, deve farci riflettere.